Dallo scoglio più alto del mare, con la mano inizia a salutare. Io ti aspetto che ritorni giù, niente di più. Guardami, guardami saltare, statti accorto e negato fai male. Ma non ti preoccupare, mi dicevi tu. Eri come in un sogno d'estate, ma alla fine m'hai dovuto svegliare. Con gli occhiali da sole e le mani bagnate. Ti saluto, me ne devo andare, ma tornerò. Perché m'hai fatto innamorare, non mi dire di no. Ragazza del mare, ti rivedrò. A così dolce e mai banale, fammi quello che vuoi. Ragazza del mare. Ragazza del mare. Quante volte mi hai parlato dell'America e di quell'altro che volevi sposare. Io di cose ne ho viste, lascia stare. Alla fine si fa tanto per poi ritornare. Lasciami, lasciami sognare. È troppo tempo che non trovo pace. Ma che ci posso fare? Dimmelo tu. Proprio come in un sogno d'estate, alla fine m'hai dovuto svegliare. Con gli occhiali da sole e le mani bagnate. Ti saluto, me ne devo andare, ma tornerò. Perché m'hai fatto innamorare, non mi dire di no. Ragazza del mare, ti rivedrò. A così dolce mai banale, fammi quello che vuoi. Ragazza del mare. Alla fine basterebbe pensare ai tuoi occhi, qualche volta mi capita. Ma non posso restare, posso restare. C'è una rimanata vuota, via da sto corpo.